Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incendi e evacuazione nella notte per 25 famiglie a San Michele del Carso. Si lavora ancora sul Brestovez, sopra la strada del Vallone, dopo il nuovo focolaio che si è sviluppato ieri in Vallarese, attesa per domani l'apertura di una viabilità alternativa per la località, isolata ormai da 8 giorni. Varsila, nessun ripensamento. Al tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, i finlandesi confermano lo stop alla produzione nello stabilimento di San Dorligo della Valle e i 450 licenziamenti. La Regione e il Ministro Giorgetti, scelta inaccettabile che mina il rapporto di fiducia interessate alle istituzioni europee, sciopero di 8 ore il 4 di agosto degli stabilimenti del gruppo in Italia. Fontana Fredda, San Quirino e Roveredo in Piano chiedono lo stato di calamità naturale dopo la tromba d'aria dell'altra notte, fabbriche e case devastate, colture in ginocchio. Consiglio regionale via libera allo stanziamento da 20 milioni per nuove industrie nella zona Aussacorne, a quello da 40 milioni per ridurre il caro energia alle imprese. Riprende oggi pomeriggio la discussione sulla finanziaria d'estate. Nuova produzione cinematografica in corso a Ronchi dei Legionari, riprese che proseguiranno fino alla prima settimana di agosto. Calling the Boss torna a Trieste, il ciclo di appuntamenti in chiave rock nato dallo storico concerto di Springsteen del 2012, tra i nomi in cartellone domani quello di Edoardo Bennato. L'arte sugli alberi parte a Butrio, il Tree Art Festival, cultura, arte, musica ma anche divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità. Le 7:19 minuti e 45 secondi di giovedì 28 luglio 2022. Buongiorno da Eva Ciucca e Andrea Vardane, che condurranno questa prima edizione del giornale radio regionale. Il cielo da poco nuvoloso variabile sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 5, Trieste 23,5 gradi, il mare è mosso e una temperatura di 24 gradi e 5 decimi. A Udine abbiamo 24 gradi e 5 decimi, a Gorizia 23, a Pordenone 22, a Tolmezzo 20, a Tarvisio 16, a Forni di Sopra 14 gradi, a Sappada 13, sul Piancaballo 12, sullo Zoncolan 11,5 e sull'Ussari 10. Tornando sulla costa, a Lignano e a Grado abbiamo 24,5 gradi con una temperatura del mare di 25 gradi e 5 decimi. Le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Oggi sulla zona montana cielo in genere variabile, nel pomeriggio non si escludono locali rovesci, specie al confine con il Cadore. Sulla pianura il cielo sarà poco nuvoloso e nel pomeriggio farà caldo. Sulla costa cielo in genere sereno e soffierà bora moderata al mattino, brezza nel pomeriggio. Cominciamo subito aggiornando la situazione dell'incendio che ieri ha tornato a devastare il Carso Goriziano tra Devetacchi e San Michele, rogo completamente separato dai precedenti focolai e fiamme che si sono sviluppate dal bordo della statale 55 attorno alle 14 per poi estendersi sul versante del Monte Brestovez. I vigili del fuoco, il corpo forestale regionale e i volontari della protezione civile hanno lavorato per tutta la notte. La situazione era stata dichiarata sotto controllo poco dopo le 19, dopo l'intervento di 2 elicotteri e un Canadair, ma il vento ha poi nuovamente alimentato il fuoco che si è spostato verso San Michele del Carso e verso le 3 di notte, come avete sentito dai titoli, il sindaco di Savogna di Sonzo ha fatto evacuare 25 famiglie residenti nelle case vicino al bosco, famiglie che si sono rifugiate nella palestra comunale di Savogna. La strada del Vallone è rimasta chiusa fino a Gabria per permettere ai vigili del fuoco di intervenire senza ostacoli. Gli elicotteri hanno ripreso poco fa ad operare, altri 2 Canadair sono in arrivo. Il sindaco di Savogna, Luca Pisca, che abbiamo raggiunto telefonicamente poco fa, ci fa il quadro della situazione che dice dovrebbe essere sotto controllo. La notte era un po' movimentata, purtroppo alle 3 di notte abbiamo dovuto evacuare una parte di San Michele, la zona delle case situate vicino al bosco, perché purtroppo da Brestovez è salito sul fuoco. La situazione siamo sotto controllo, anche perché il vento ha cambiato un po' la direzione. Adesso dovrebbero intervenire gli elicotteri. Io sono molto positivo sulla situazione, così che verrà risolta. Verso le 3 di notte sono stati evacuati gli abitanti, ma non tutti? Non tutti, no. Solo le case situate vicino al bosco. Così abbiamo deciso con le forze dell'ordine che ci pareva la cosa più sensata. Il focolaio è ancora attivo? Ancora attivo. Era anche un attimino pericoloso alle 3, perché è salito su da Brestovec veramente forte, imponente, ma insomma alla fine andrà bene. Dovrebbe cessare domani l'isolamento della Valle Resia dopo che l'unica strada di accesso è stata bloccata dall'incendio scoppiato 9 giorni fa. Assicurazioni in questo senso sono arrivate dalla sindaca Micelli e dall'assessore Riccardi. Fin da subito è arrivata la disponibilità di consentire il passaggio di scorte tecniche di quelle persone che hanno assoluta necessità di spostarsi per motivi di salute o per l'approvvigionamento di generi alimentari. Domani, appunto, è attesa l'apertura di una viabilità alternativa. Passiamo ai temi economico-sindacali. Wärtsilä dunque ha confermato anche al tavolo con le istituzioni e i sindacati al Ministero dello Sviluppo Economico la volontà di fermare la produzione nell'impianto di San Dorligo della Valle presso Trieste e di licenziare 450 persone. Dura la reazione del governo e della regione che parlano di una scelta di carattere politico e di rapporto di fiducia gravemente incrinato con la parte finlandese. Sindacati decisi a difendere la fabbrica. I dettagli su quel che è accaduto ieri a Roma. Wärtsilä non si ferma e continua sulla procedura di chiusura dell'attività produttiva a Trieste. A dirlo il presidente di Wärtsilä Corporation, Håkan Agnevall, durante il tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo Economico. Alla riunione erano presenti il ministro Giorgetti, il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga e le parti sindacali. Wärtsilä si è detta pronta a mettere in campo il piano di mitigazione previsto dalle procedure, ma allo stesso tempo non ha messo sul piatto alcuna proposta concreta. Manterremo una serie di attività, ha detto Agnevall. Continueremo ad avere più di 500 lavoratori ed esploreremo la possibilità di futuri investimenti. Dura la replica del ministro Giorgetti e del governatore Fedriga. Una scelta di carattere politico, ha detto Fedriga, e non dettata dalla mancanza di sostenibilità economica dell'impianto di Trieste. Scelta volta a deindustrializzare l'Italia. Il presidente del Friuli Venezia Giulia ha aggiunto, sui finanziamenti ricevuti dai finlandesi, avete preso decine di milioni di soldi pubblici e ora dismettete lo stabilimento, perciò faremo presente ovunque questo atteggiamento industriale inaccettabile per tutta Europa. Il ministro Giorgetti ha sottolineato come la fiducia è gravemente incrinata e la società ci chiede di avere fiducia nella procedura che ci attende. La volontà del governo è quella di tutelare un asset strategico per la navalmeccanica del nostro paese, difendendo gli interessi anche di Fincantieri e della croceristica. Giorgetti ha sottolineato l'impegno a difendere l'interesse anche naturalmente dei lavoratori. La risposta sindacale da parte della Wilm, che definisce gravissima la posizione dell'azienda. Difenderemo la fabbrica per cercare di garantire un futuro ai dipendenti della ex Grandi Motori e dal nostro comparto industriale. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le fabbriche Wärtsilä in Italia, in risposta alle decisioni della multinazionale, si fermeranno per 4 ore giovedì prossimo. È la decisione del coordinamento unitario FIM, FIOM, WILM, che hanno anche deciso di organizzare una manifestazione cittadina fino a agosto a Trieste, aperta a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, alle istituzioni e all'associazionismo locale. L'UGL annuncia a sua volta che sarà impegnata in assemblee e mobilitazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e far sentire la vicinanza del sindacato a tutti i lavoratori e anche alle istituzioni. Si pone il problema di come andare avanti adesso anche la presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani. Il ministero, dice la parlamentare Dem, deve anche approfondire le modalità di intervento concreto sulla continuità produttiva dello stabilimento e considerare del suo insieme la problematica della deindustrializzazione dell'area triestina. Al tavolo anche la deputata del Movimento 5 Stelle Sabrina De Carlo, che si è detta certa che Fedriga e Giorgetti continueranno a garantire il massimo impegno nell'individuazione di percorsi che difendano il sistema produttivo del paese, favorendo interlocutori affidabili che tutelino gli interessi di famiglie e lavoratori. Cambiamo argomento. Pesanti danni da maltempo nel Pordenonese dopo la tromba d'aria di 2 sere fa, vento di una violenza mai vista da queste parti. 3 comuni hanno già chiesto lo stato di calamità naturale. Mio padre ha quasi 80 anni, e ha sempre fatto l'agricoltore e per la prima volta nella sua lunga esperienza di agricoltore non vendemmierà. Per la prima volta non vendemmierà l'azienda agricola Conzato di Roveredo in Piano. I 35 ettari di vigneto sono irrecuperabili, completamente distrutti dalla furia del maltempo. E c'è preoccupazione anche per il prossimo anno. L'imprenditore agricolo Antonio Conzato. Abbiamo avuto un danno del 100% sui vigneti condotti dall'azienda e siamo molto preoccupati anche per la produzione del 2023, perché potrebbero essere state compromesse anche le gemme che dovrebbero fare uva il prossimo anno. Vigneti, mais, frutteti, quasi nessuna coltura si è salvata. I tecnici della regione sono in sopralluogo tra le campagne più colpite. Per la Coldiretti questa è l'ennesima mazzata, un'agricoltura già in gravissima sofferenza. Il direttore di Coldiretti Pordenone, Antonio Bertolla. Non possiamo accorgerci dell'importanza dell'agricoltura solo quando c'è il rischio che manchino i prodotti agricoli sugli scaffali o nelle nostre case, allora scatta l'allarme. Quest'anno abbiamo una stima del 30% delle imprese agricole che stanno lavorando in perdita e una su 10 di queste è a rischio chiusura. È chiaro che poi se capitano devastazioni di questo tipo rischiano di essere fatali. Il maltempo ha lasciato dietro di sé una scia di danni anche a edifici pubblici, case private, aziende e capannoni. È già la seconda volta che ci succede in 4-5 anni. L'altra volta, anche l'altra volta aveva tirato su tutte le piante. Ma secondo lei questa volta è stata peggio dell'ultima? Sì, sicuramente. Siamo stati fortunati perché non ha piovuto. Perché altrimenti con la pioggia, purtroppo, il tipo di tetto che è vecchio, senza le tegole, col servizio qua dei vigili del fuoco mi hanno coperto il tetto, sono un po' più tranquillo. I comuni più colpiti, Fontana Fredda, San Quirino e Roveredo in Piano, hanno chiesto lo stato di calamità. Il sindaco di Fontana Fredda, Michele Pegolo. Un'idea ce l'abbiamo di danni, sicuramente supera qualche milione di euro. Ovviamente stiamo facendo adesso tutte le operazioni di stima per riconoscere lo stato di calamità, proprio per venire incontro ai cittadini, soprattutto quelli che non hanno una copertura assicurativa. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci dal Pordenonese in montagna per parlare degli effetti della siccità che colpisce anche zone abitualmente molto piovose. È il caso di Sauris, dove la falda profonda è andata a secco e l'acqua dalle fonti alternative è di scarsa qualità. Problemi per l'industria alimentare, per i comuni cittadini e in prospettiva anche per il turismo. Prendo il rubinetto e usciva acqua sporca, ma sporca veramente melmosa, per cui non è che fosse soltanto non potabile, era proprio imbevibile. Fino a poche settimane fa gli abitanti di Sauris hanno potuto toccare con mano il cambiamento climatico e la crisi idrica ad esso connessa. La sorgente principale di falda non ce la fa più, troppo bassa. L'acqua torbida arrivava dopo i temporali dalle altre due sorgenti secondarie di superficie, ora chiuse. Paola Petris, responsabile dell'albergo diffuso. Gli ospiti che sono venuti qua hanno detto: ma come, qui a 1400 metri non si può bere l'acqua fresca nemmeno per lavarsi? E quindi noi abbiamo dovuto acquistare bottigliette di acqua. L'impatto sulle attività produttive non ha tardato a farsi sentire. Massimo Petris, cotitolare del birrificio. Abbiamo fatto una riserva d'acqua, siccome l'impianto del birrificio ce lo può permettere. Qualora dovessimo sforare, abbiamo dei macchinari apposta che con dei costi esorbitanti riusciamo a purificare l'acqua. Gli abitanti hanno promosso una raccolta firme spontanea e si è arrivati a un incontro con i responsabili del consorzio acquedotto Friuli Centrale. L'impegno è stato quello di cercare sorgenti alternative con inizio lavori nella primavera 2023. Hermes Petris, sindaco di Sauris. Poca neve vuol dire che le falde acquifere non si riempiono e quindi scarsità di acqua potabile e ricerca di nuove sorgenti. L'emergenza idrica potrebbe aggravarsi con la tanto attesa riapertura della strada principale, quella del Lumiei, chiusa da metà giugno per lavori fino a metà agosto. Torneranno i turisti che finora sono mancati, quelli della gita fuori porta, in giornata. Il consorzio acquedottistico, che finora non rileva emergenze tali da prevedere l'invio di autobotti, ha già dato disponibilità a farlo se dovesse esserci bisogno. Stefano Petris, amministratore del prosciuttificio. Già adesso si vedono, diciamo, i primi segnali di poca pressione e quindi siamo nel momento un po' più critico, dal momento in cui poi adesso partirà anche il turismo e quindi aumenteranno sicuramente di molto i consumi. Sauris, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. 7:32 minuti, una notizia di cronaca: i carabinieri di Basovizza hanno arrestato un imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta e violazione della normativa sulla tutela del lavoro dei minori. Secondo le indagini, l'uomo impiegava ragazzi sotto i 18 anni come tecnici installatori nella sua ditta di condizionatori. È stato rintracciato su un pullman in arrivo dalla Romania. e ha destato viva impressione la morte di Willy Bergomas, 53 anni, titolare di un agriturismo a Mariano del Friuli. L'uomo in coma da domenica 17 luglio all'ospedale di Gorizia dopo essere stato punto da un calabrone ed essere andato in shock anafilattico. Oggi l'ultimo saluto a Elena Loduca, l'assistente di polizia e volontaria della Protezione Civile morta a Cialla di Prepotto giovedì scorso mentre interveniva per spegnere un incendio. I funerali alle 11 nel Duomo di Cividale. La sindaca della città dove Elena prestava servizio ha proclamato il lutto cittadino. Riprendono nel pomeriggio alle 14.30 i lavori del Consiglio regionale impegnato nell'approvazione delle variazioni di bilancio. Tra le norme che ieri hanno avuto il via libera, quella che stanzia 20 milioni per l'industrializzazione della zona di Aus Corno e il comma da 40 milioni per i ristori alle imprese contro il caro energia. Nonostante gli attriti rimangano, sprazzi di convergenza si vedono in Consiglio regionale tra maggioranza e opposizione durante i lavori per l'assestamento di bilancio dal valore mai visto prima di 811 milioni di euro. Trasversale ma non unanime l'appoggio all'emendamento di Giunta che stanzia 20 milioni necessari a preparare l'investimento da 1 miliardo di Metinvest e Danieli in Aus Corno per la costruzione di un impianto siderurgico che impiegherà 1000 persone. Convergenza anche su un emendamento del Partito Democratico approvato che permette di usufruire del buono Turesta nelle strutture ricettive della Regione una volta l'anno, mentre fino ad oggi non si poteva sfruttarlo una seconda volta, nemmeno in anni successivi. Via libera anche ristori destinati alle imprese per l'aumento delle bollette. Un bando definirà i criteri per ripartire 40 milioni. E proprio per l'aumento dei costi sono stati messi in campo altri 5 milioni per ristrutturare la terrazza a mare di Lignano. Si è convinto alla manovra da parte di Fratelli d'Italia, Leonardo Barberio. Non è sicuramente un assestamento di mancette elettorali come veniva fatto probabilmente i mandati precedenti, ma è un assestamento dove cerca di andare a risolvere i problemi, quelli strutturali che ormai perdurano da tanto tempo e anche quelli che si stanno verificando proprio in questi momenti. I cittadini invitano un utilizzo corretto delle molte risorse a disposizione in questi mesi. Tiziano Centis. Questo assestamento, così come anche l'assestamento di quest'autunno, ma anche la finanziaria fine anno, ma nell'insieme questi soldi, queste risorse che la Regione ha a disposizione, è importante che siano indirizzate per il giusto verso. La Regione deve essere attenta, mettere da parte le questioni propagandistiche elettorali, ma centrare gli obiettivi che sono quelli, famiglia, lavoro, occupazione. Nel pomeriggio il dibattito è proseguito su agricoltura e risorse forestali, ampio spazio alle emergenze, siccità e incendi, prima di passare al capitolo cultura e sport. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento politico. Trieste ha voglia di tram, non di ovovia. È il titolo dell'incontro pubblico convocato da Adesso Trieste per le 18.30 in piazza Puecher, nel capoluogo regionale. La Film Commission Friuli Venezia Giulia ha presentato a Ronchi dei Legionari la nuova produzione cinematografica che si sta realizzando nella nostra regione e che si concluderà le riprese entro i primi giorni di agosto. Unità mobile di soccorso è il titolo del film, che racconta un viaggio inatteso attraverso cui i protagonisti svilupperanno un'esplorazione interiore. Un road movie dall'Abruzzo alla Serbia, due uomini e una donna nel loro slancio giovanile verso il mondo, un mondo che si materializza negli scenari del Friuli Venezia Giulia, da Grado a Campeglio di Faedis fino a Monte Fosca di Pulfero, ambientazioni scelte dalla regista Maria Tilli con Film Commission Friuli Venezia Giulia. È una zona, quella di Monte Fosca, rimasta veramente ferma nel tempo. E quindi è stato molto emozionante trovare questi posti, secondo me poco raccontati e ancora molto intatti, di un'altra epoca. La società produttrice 302 Original Content ha da tempo un rapporto collaudato con la coordinatrice di Film Commission Chiara Valenti Omero, grazie alle numerose pellicole già girate. Anche questa volta il 30% degli operatori tecnici nella troupe giunge dal nostro territorio. Il produttore Stefano Basso. Il road movie è sempre un film molto affascinante proprio per il termine che ha. La regione è grande, ha diversi panorami, tante piccole bellezze estetiche, ma anche bravure a livello professionale, quindi un compromesso molto piacevole. Ronchi dei Legionari, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Trieste è pronta ad accogliere la 37esima tappa dell'International Street Food Festival, la più importante manifestazione di cibo di strada in Italia. Da oggi a domenica Ponte Rosso sarà teatro di 30 cucine diverse, tanti ristoranti itineranti e chef qualificati pronti a stupire con le loro particolarità e qualità. Protagonisti prodotti di paesi diversi, senza tralasciare però il territorio e la gastronomia regionale. Sono le 7.37 e 23 secondi, siamo alla pagina degli spettacoli e della cultura. È un artista capace di condensare circo, danza e la versione più spericolata del teatro. Mark Osterhoff si esibisce per il Mittelfest con lo spettacolo Take Care of Yourself all'Orto delle Orsoline alle 20, dove l'artista giocherà con il rischio di coltelli, trappole per topi e bicchieri da shot con risultati sconosciuti. Oggi parte anche il percorso Ops, con posto da 9 installazioni sonore allestite negli spazi della città. Musica e parole accompagneranno chi visita Mittelfest in modo imprevisto. Gli altri spettacoli in programma: lo svizzero Death and Birds in My Life al Museo Archeologico Nazionale, l'italiano Deja Walk con partenza da Piazza Duomo, lo spettacolo sloveno Borderless Body nella chiesa di Santa Maria dei Battuti e il concerto Il Selvaggio, una produzione slovacca, alle 22 al Convitto Nazionale Paolo Diacono. E a Trieste torna il popolo del Bosch, si rincontra in una serie di serate musicali che si chiama appunto Trieste Calling the Boss. Si comincia stasera con un aperitivo in Piazza Verdi per spostarsi poi al Parco di San Giovanni. Tra i grandi nomi anche Edoardo Bennato, atteso per domani al Castello di San Giusto. Ma sentiamo l'intervista al vicepresidente di Trieste Is Rock, Franco Stogaus. Lo spirito è sempre quello di 10 anni da questa parte, da quando abbiamo iniziato a celebrare l'arrivo a Trieste di Springsteen. Abbiamo cominciato quasi per gioco un mese prima di quel concerto a fare una serata celebrativa e l'anno dopo abbiamo deciso di riproporla perché c'era una richiesta e da lì è nato tutto questo festival che è cresciuto negli anni. Anche l'anno della pandemia siamo riusciti a farlo online, quindi non vogliamo, andiamo avanti e quest'anno abbiamo un calendario ricchissimo e davvero per tutti i gusti. Si parte questa sera con James Madoc al Parco di San Giovanni. James Madoc è un inglese trapiantato a New York, è un gentiluomo, musicista perfetto, l'abbiamo già fatto altre volte a Trieste, bravissimo. Suonerà col pianista di Bob Dylan, quindi mi sembra già un buon biglietto da visita. Poi avremo venerdì Edoardo Bennato, un aperitivo in musica prima, il pomeriggio in Piazza Verdi. Miami The Grooves, un gruppo di Rimini, una rock and roll band che aprirà prima di Edoardo, quindi diciamo è già qui in Castello di San Giusto. E poi una serata dedicata al Boss, apriranno due band di Trieste, Ivo Tool Trio e The Kids, che suoneranno alcuni pezzi di Bruce alla loro maniera, e poi largo spazio, 2 ore e mezza di un vero e proprio spettacolo springsteeniano. Ci sono i Blood Brothers di Livorno, una delle tribute band migliori assolutamente in Europa. Chi non ha mai visto Springsteen, quando vede questi ragazzi qui, penso ha già visto l'80% di quello che può essere un concerto di Springsteen. Sarà inaugurata alle 11 al Museo della Cantieristica Monfalcone la mostra iconografica Si sta costruendo la prima nave del mondo, titolo che si ispira alla funzione narrativa della nave Argo, tratta dalle molteplici suggestioni delle scenografie del film Medea. Un'imbarcazione letta da Pasolini come metafora del viaggio e dell'esistenza umana, temi a lui cari e trattati in diverse occasioni, la cui rappresentazione mitologica si ritrova negli allestimenti delle grandi navi passeggeri realizzate a Monfalcone, a cavallo della metà del Novecento, e che si richiamano al mito di Giasone. La mostra resterà aperta fino al 18 settembre. Cultura, arte, musica, performance, ma anche divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità. Tutto questo è Tree Art Festival, che oggi comincia a Butrio fino al 31 di luglio. Inaugurazione domani con il noto conduttore radiofonico Massimo Cirri, l'artista Roberto Ghezzi e la performance di danza di Area Rea. La giornata di oggi è invece dedicata ai tavoli di lavoro sul tema della foresta urbana e della biodiversità delle città. Ne parliamo con il direttore scientifico del festival, Pietro Maroè. Le nostre città, e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle ultimamente, sono delle isole di calore sostanzialmente, e gli alberi ci possono aiutare proprio a mitigare questo effetto di isola di calore con la loro traspirazione, con la loro ombra, con tutta una serie di cose che si chiamano benefici ecosistemici, che quindi quando vengono piantati nelle nostre città danno origine alle stesse interazioni che si vivono in un bosco. Per questo si parla di urban forest. Il festival è anche un'occasione per il confronto, per progettare insieme le città del domani. Le città di domani dovranno essere necessariamente più verdi, più attente alla biodiversità, più vivibili proprio in funzione di questa nuova e ritrovata funzione, non soltanto per noi esseri umani, ma per tutto quello che circonda invece il mondo degli alberi, che sostanzialmente dà da vivere a tutti. Gli alberi sono un po' una grande casa, perché si trovano gli insetti, si trovano i funghi, si trovano i batteri, si trovano i mammiferi, per cui il fatto di portare altri alberi, rendere ancora più verdi le nostre città, ci farà entrare più in sintonia con la natura, permettendoci un benessere anche noi, che si rifletterà poi anche da un punto di vista economico, ad esempio sul sistema sanitario nazionale. Quando si pensa agli alberi in un contesto urbano, si pensa ai comuni, alle amministrazioni, alle associazioni, ma cosa possiamo fare noi come cittadini? In questo caso abbiamo ideato 4 tavoli tematici per il Tree Art Festival, dove appunto le amministrazioni, i cittadini, i tecnici, le imprese che hanno a che fare e che vivono la città possono portare le loro istanze e discutere tutti quanti insieme di quelle che sono le migliori soluzioni da poter attuare in quella che è una sorta di progettazione partecipata di quelle che sono le linee guida poi che per la gestione del verde che verranno sviluppate. All'Aquileia Film Festival si viaggia con il film Narbonne, la seconda Roma, tra gli antichi porti dell'Impero Romano. Seguirà un'appassionante conversazione a cura di Piero Prunetti, direttore di Archeologia Viva, con Marta Novello, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, ed Edino Valcovic e Chiara Mistelli del MUCA, il Museo della Cantieristica di Monfalcone. In programma anche il film Ecco che cominciamo a dipingere con la pietra a Ostia Antica, all'interno di uno degli ambienti di servizio delle terme di Portus. E oggi si conclude con le premiazioni dei vincitori la 18ª edizione di FM Cup, il Festival Internazionale di Corti di Cinema Zero a Pordenone. Proiezioni, laboratori, musica e nuovi linguaggi per comunicare il cinema sono gli ingredienti della terza giornata, che si concluderà alle 22:30 con l'esibizione della cantautrice performer italo-canadese di origine pordenonese Ronnie Grace, accompagnata alla tastiera da Dennis Ronchese. Dalle 15 alle 19 in Mediateca sarà possibile provare l'esperienza della realtà virtuale con i corti VR più rilevanti degli ultimi anni. Torna agli incontri con l'autore con il vino a Lignano, Tullio Avoledo, che alle 18:30 al Pala Pineta presenta Come navi nella notte, un romanzo ambientato in una cupa Italia post-pandemica, dove la penetrazione ormai non più solo economica della Cina sembra aver assunto i tratti di un vero e proprio assoggettamento. Nel libro l'autore combina sfrenata fantasia e feroce realismo, mettendo in scena un futuro molto prossimo, capace di far risaltare meglio le ombre che incombono sul nostro presente. Una notizia di tennis: prosegue sui campi dell'Eurosporting di Cordenons il torneo femminile del circuito ITF. Avanzano al secondo turno tra le altre Elina Vanessian, testa di serie numero 2, e l'azzurra Angelica Moratelli. Eliminate invece le altre italiane Rosatello, Pieri e Zucchini. Quarti di finale in programma dalle 14. Siamo alla rassegna stampa. In primo piano del piccolo di Trieste, inevitabilmente la crisi Wärtsilä che incrina la fiducia della Finlandia, l'ira di Giorgetti dopo la conferma dei tagli non finisce qui, e Fedriga che annuncia il caso sarà portato all'Unione Europea. E poi la fotonotizia con la foto scattata dall'alto del Carso bruciato, per richiamare dunque il reportage dal titolo In volo sul deserto nero, e poi il fuoco si rianima. La cronaca: restauro Trieste per la rompighiaccio Laura Bassi, che si prepara alla quarta missione prevista dal prossimo 15 novembre. Più corse, più disagi, l'autostazione nel mirino dei turisti, e poi ancora Olimpiadi delle Clanfe a quota 100 iscritti, in gara anche Sterpin. In prima pagina il titolo che apre la pagina della cultura, dunque all'interno del giornale: Bennato ritorna nella sua Trieste un po' napoletana. Domani fa tappa al Castello di San Giusto per la rassegna Trieste Calling the Boss. Il tema tema del capocronaca nelle pagine interne: macchine in divieto, niente posti a sedere, turisti disorientati, caos all'autostazione, in crescita le linee ma non i servizi, zero informazioni all'esterno, dove la sosta selvaggia complica pure le manovre dei bus. Polo siderurgico a Porto Nogaro, i primi 20 milioni, questo è il titolo principale del Messaggero Veneto edizione di Udine, che però ha in primo piano una fotonotizia con la sofferenza dei boschi vista dall'alto dopo il fuoco e il maltempo. Temi nazionali per il richiamo in prima con il confronto governo-sindacati in vista del nuovo decreto aiuti. Per la cronaca, la notizia della chiusura del multipiano di Via del Vascello, un parcheggio da demolire, questa è anche la storia che apre le pagine di cronaca locale, e quella dell'annullamento delle condanne per i falsi prosciutti di San Daniele. Il Carso torna a bruciare, l'apertura scelta dal Piccolo di Gorizia Monfalcone, poi la cronaca di Spalla, muore a 53 anni per la puntura di un calabrone. Parco Coronino chiuso da 2 anni, questo è il tema del capocronaca nelle pagine interne, in arrivo 1,7 milioni. E poi Marina Nova aspetta la sentenza del TAR per riaprire i servizi. Nella pagina di Monfalcone, dopo il contenzioso sulla gara per l'affidamento quindicennale, Marina Nova e i servizi appesi al TAR, la CISINT dice l'ho riaperta, basta attacchi. E poi la pagina della cultura, il set isontino del road movie In ambulanza, l'opera prima di Maria Tilli. L'edizione del Pordenonese del Messaggero Veneto apre invece con la richiesta di stato di calamità da parte dei 3 comuni colpiti dalla tromba d'aria dell'altra notte. Richiami di cronaca per l'incidente stradale avvenuto l'altra sera a Raucedo, la comunità del Burkina Faso di Spilimbergo è in lutto per la morte di un ragazzo di 28 anni. Il giornale riferisce anche di un effetto collaterale della siccità, il Gorgazzo è in secca e la statua del Cristo a fiore delle acque. La crisi idrica del Noncello apre invece le pagine di cronaca locale. Le campagne friulane in ginocchio è il titolo principale sulla siccità del Gazzettino di Pordenone, fotonotizia dedicata ad una serie di scritte anarchiche, tutte uguali su 20 case di Pordenone. In arrivo una denuncia e la richiesta dei danni perché gli autori sono stati individuati dalla polizia. La fotonotizia del Gazzettino di Udine è invece dedicata al caldo che ha conseguenze anche, dice il giornale, sul piano del lavoro in fabbrica a partire dal caso della Modina. Si parla anche di sport sul Gazzettino. Sale la febbre per il Chelsea. I Blues sono in arrivo domani allo Stadio Friuli per l'amichevole con l'Udinese. Sottil con la formazione migliore. Bene la prevendita dei biglietti. Vi segnaliamo qualche appuntamento musicale in calendario per oggi. Ci sono i Nomadi a Gradisca nell'area del Castello, gruppo storico del rock italiano. Beppe Carletti e i soci presentano, oltre ai successi di una carriera lunga 50 anni, anche gli inediti dell'album Solo Esseri Umani, cancelli aperti alle 20. Musica elettronica britannica d'autore per Sexto Unplugged in piazza Castello. A Sesto Regen appunto suona Rival Consoles, nome d'arte di Ryan Lee West, alle 21. Daniele Dagaro, sassofoni e clarinetti, Giovanni Maier, contrabbasso e Zlatko Kaucic, batteria e percussioni, saranno i protagonisti del concerto del Festival More Than Jazz alle 21.30 in corte di Palazzo Borburgo. Sonorità spagnole e sudamericane nel cartellone di Nei suoni dei luoghi alle 21 sul sagrato della chiesa di San Martino a Campolongo Tapogliano, il concerto dell'Al-Andalus Clarinet Quartet. Musica Cortese propone invece un percorso storico musicale intitolato L'Osteria del Medioevo. Si comincia alle 19 a Palazzo Votona, Gemona. Le 4 voci soliste del coro Le Mystère de Bois Bulgare celebrano in piazza Ellero a Tricesimo il trentennale del Folk Club Butrio. Appuntamento alle 21. Segnaliamo ancora un libro, È gradita la camicia nera, un'analisi della storia dell'estrema destra nel cuore del ricco nord-est, scritto da Paolo Berizzi, che dialogherà con Alessandra Kersevan alle 18.30 alla Casa della Musica di Cervignano. Torna la musica tradizionale irlandese suonata da professionisti di ampia esperienza nella serata di Triskel, il Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica al Boschetto del Ferdinandeo a Trieste. Dalle 21.15 i Drifters, che propongono con taglio moderno e accattivante brani antichi di secoli per farli apprezzare il pubblico più ampio possibile. Prosegue anche per tutto il giorno in diverse località della Val Colvera il festival Il Di Circo Contemporaneo Brocante, diversi gruppi internazionali oggi in scena. Per dare un'idea si va dagli specialisti dell'altalena e quelli della scala di equilibrio e del trapezio a mano fino alle coreografie acrobatiche con artisti in arrivo da mezza Europa. Non mancano i momenti di approfondimento statico con conferenze e presentazioni di libri. È alle 7:51 minuti e 31 secondi chiudiamo questa edizione del giornale Radio Regionale che è stata redatta da Eva Ciucca e Andrea Vardanega che l'hanno anche condotto in studio. Alla guida della parte tecnica Federico Comar e Riccardo Stoici, in redazione ha collaborato Laura Sarasini. Le trasmissioni radiofoniche della RAI per il Friuli Venezia Giulia tornano poco dopo le 11 con la presentazione dei programmi e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in lingua friulana Vue o Fevelin di, alle 11:20 Vintage, canzoni e oggetti che non passano mai di moda, che comincia da Edoardo Bennato domani di scena, come avete sentito, al Castello di San Giusto a Trieste. L'edizione meridiana del giornale radio alle 12:30, a quella vediamo appuntamento, ma l'informazione dal territorio prosegue anche sul nostro sito rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili social TGR Rai FVG. A tutti ancora grazie per essere stati con noi e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.